fuego, gli occhi di un bambino, le tue ambiguità trasparenti e ardite, giochi di volontà. Uomo evanescente, con quale intensità, essere importante, con quanta crudeltà. Poi la farai finita, che cosa inventerai, guardandomi negli occhi, che cosa troverai. Sono tua. Nei profondi istinti della tua complicità, contesa e la tua abilità, vorrei che in un momento ti assomigliassi un po', per porre fine al gioco, per dirti che sarò per te orizzonte, la tua libertà, ma scoprirò i tuoi fianchi e la tua fragilità, guardando nei tuoi occhi mi riconoscerei, perduta e un po' bambina, e ancora ti direi, io sono tua. Sono tua.